Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, un ascolto che prosegue da casa, fatto apposta per prendere appunti. E forse una timida luce in fondo al tunnel cominciamo anche a vederla. Di sicuro sappiamo che il nostro modo di guardare il mondo, ma anche solo il nostro paese, sta cambiando. E forse anche il modo di viaggiare e fare vacanze. Il sommario. Questa settimana andiamo in Toscana, a Pitigliano, un paesino che nasce dal tufo e dove si produce un buonissimo rosso. Poi in Piemonte, a Limone, che non è solo sci e neve e che si sta preparando a una estate alternativa. E poi ci faremo raccontare come sarà il viaggiatore di domani attraverso una ricerca. Pitigliano è un comune toscano immerso nella Maremma, un paese che sembra intagliato nel tufo, un posto dove ci si può sentire a casa e dove, oltre a gioire con gli occhi, può essere soddisfatto anche il palato. Pitigliano è la scelta di questa settimana della nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Rimaniamo nel centro Italia, già che eravamo lì settimana scorsa, ci rimaniamo e cambiamo un pochino la modalità di visita. Quindi, come dici tu, non è un monumento, ma andiamo a visitare un paesino intero che secondo me è talmente bello che è un monumento a sé stante. Siamo a Pitigliano, che è nella Maremma toscana e che è quasi al confine con il Lazio, quindi tu giochi sempre un po' in casa. Facciamo come sempre un filo di storia: questo paese ha delle origini antichissime, perché il suo primo nucleo viene fatto addirittura risalire al Neolitico. In realtà però acquisisce rilevanza in epoca etrusca, perché gli etruschi l'hanno abitato e ci hanno lasciato delle tracce molto importanti, una per tutte le vie cave, che sono questa cosa unica al mondo, cioè sono dei percorsi che gli etruschi avevano scavato nel tufo e che arrivano a essere grandissimi, perché arrivano a essere larghi 4 metri, profondi 25 metri, lunghi 1 chilometro, che non si è mai capito esattamente che cosa fossero, cioè se avessero una funzione funeraria oppure viabilistica, se fossero per il deflusso dell'acqua, se fossero una cosa sacra, insomma, però che sono rimasti come monumento visitabile straordinario. Pitigliano è circondato di vie cave e a parte questo ha poi un'altra serie di elementi architettonici che man mano nella sua storia si sono, come dire, aggiunti. Anche nell'anno 1000 per esempio è stato arricchito perché era in mano alla famiglia Aldobrandeschi, che era una famiglia molto famosa e molto ricca. In realtà però la vera vita importante di Pitigliano risale al XVI secolo e acquisisce il paese un'importanza centrale nel momento in cui una numerosa comunità ebraica, che era stata espulsa dallo Stato della Chiesa, si trasferisce a Pitigliano. Siamo nel XVI secolo, domina la famiglia Orsini e è il momento in cui in qualche modo viene creato il problema della prima forma di antisemitismo, tant'è che Pitigliano viene definita attualmente la piccola Gerusalemme. If you wanna be my friend, you want us to get along, please do not expect me to. Comunque, tornando all'adesso e tornando all'andare a vedere questo posto meraviglioso, la prima cosa secondo me bellissima di Pitigliano è vederla da lontano. Tu arrivi dal mare, a un certo punto la strada fa una curva, dietro la curva di colpo ti trovi davanti questo spettacolo che toglie il fiato, perché c'è uno sperone di tufo altissimo, molto, molto massiccio, molto imponente, che è circondato da dei burroni veri e propri, profondissimi, sui quali ci sono arrampicate, proprio abbarbicate le case di Pitigliano. Ed è una vista unica. Tra l'altro devo dire, Livia, a questo proposito, che è una vista unica e lo è, direi, in tutte le ore della giornata. Perché sia la sera sembra, come sempre, tutti questi piccoli paesi un po' arroccati sembrano tutti un po' dei piccoli presepi perché sono illuminati dalle luci delle case, delle strade, però anche con la luce del giorno, del mattino, del pomeriggio è comunque una vista e un orizzonte, un panorama sempre bellissimo. È verissimo, a tutte le ore è il famoso colpo d'occhio straordinario, anche perché è una specie di monoblocco di tufo e case, tutto ha lo stesso colore, che è il colore del tufo, e quasi il paese non sembra costruito sulla roccia, sembra proprio che scaturisca dalla roccia, sembra che la roccia in qualche modo sia riuscita a prendere forma e sia diventato casa, finestra, palazzo, insomma, per cui è meraviglioso. Però la visione da lontano è solo l'inizio di questa meraviglia, perché se si inizia ad attraversarla poi ci sono dei monumenti veri e propri. Una cosa secondo me che si coglie all'inizio, che è comunque molto bella, è l'acquedotto Medicio. È stato in realtà pensato dagli Orsini nel 500 e poi finito di costruire dai Medici alla metà del 600. È il primo acquedotto di tutta la Maremma, quindi ha una rilevanza particolare. È stato pensato da subito con una funzione pratica, è inserito, è parte integrante della cinta muraria di Titigliano, completamente rivestito in tuffo anche lui, e come è una cosa che capita frequentemente nell'architettura cinquecentesca, riesce a conciliare la perfezione della funzione pratica, che in questo caso era quella di trasportare ovviamente l'acqua, con quella estetica, perché nel Cinquecento lo scopo di un monumento doveva comunque concorrere alla ricerca della bellezza, che era lo scopo ultimo. Poi c'è il ghetto ebraico, abbiamo detto una grande comunità ebraica, il ghetto ebraico che è attualmente visitabile a Pitignano, occupa un grande spazio nel paese. I ghetti sono nati nella metà del Cinquecento per effetto di una bolla papale. Il papa del momento, che era Paolo IV, ad un certo punto attraverso questa bolla impone delle restrizioni alla popolazione di religione ebraica e stabilisce che si debbano costruire in ogni città dei quartieri chiusi nei quali gli ebrei sono costretti e relegati a vivere e a lavorare. Il ghetto di Pitigliano, che come dicevo è completamente visitabile, ha secondo me una particolarità straordinaria. Perché quando varchi la soglia, quando ci entri, l'atmosfera è tale che hai la sensazione che lo spazio del ghetto, quindi lo spazio interno, non sia in realtà uno spazio costretto, non sia uno spazio imposto e quello del paese fuori sia lo spazio della libertà, ma che sia il contrario, cioè come se ci fosse un'inversione di ruoli tra chi costringe e chi è costretto, e quindi tra carcerieri e carcerati, usando dei termini un po' forti. Visitarlo è comunque una cosa interessantissima, oltre che emozionante, perché si ha uno spaccato della vita della comunità ebraica del tempo, sia per quanto concerne la ritualità che per quel che riguarda la vita quotidiana. Quindi c'è il forno kosher per la cottura dei pani rituali, c'è la macelleria kosher nella parte inferiore del ghetto, c'è la sinagoga, c'è il bagno rituale, c'è un museo, c'è la cantina kosher, insomma. Visitarlo significa imparare davvero un sacco di cose sulla vita dell'epoca e sulla vita ebraica dell'epoca. E poi c'è un monumento altrettanto famoso che è Palazzo Orsini, che è troneggia all'ingresso del paese, che è nato, diciamo, è stato costruito inizialmente tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo in forma di convento, che poi è passato di mano e alla metà del tredicesimo secolo è diventato di proprietà degli Aldobrandeschi, che l'hanno trasformato in una residenza, e alla fine è passato agli Orsini, che nei secoli successivi l'hanno arricchito, rafforzato, abbellito, e si sono rivolti per fare questo a un architetto che ormai è quasi diventato un nostro amico, Valeria, perché è Antonio da San Gallo il Giovane. Antonio da San Gallo rinforza e rafforza il palazzo dal punto di vista della capacità di difesa militare, ma soprattutto lo arricchisce di particolari costruttivi tipicamente rinascimentali. E quindi lo porta ad avere la forma che ha oggi e che ne fa un edificio imponente, elegante, con un enorme cassero centrale molto massiccio che è circondato da due torri e un torrione e che ha una cinta muraria esterna merlata. perché anche in questo caso la funzione militare, la funzione protettiva si doveva in ogni caso conciliare con la ricerca della bellezza. In sostanza però torniamo, chiudiamo il cerchio, ci sono tutti questi monumenti all'interno di Pitigliano, sono tutti da vedere, sono tutti bellissimi, ma al di là della visita dei monumenti il consiglio è di godersi Pitigliano andando a spassapiedi, perché il paese è perfettamente conservato ed è un insieme di scalette, vicoli, piazzettine, che hanno un'atmosfera talmente speciale che riescono davvero a raccontare il Rinascimento, cioè tu percorrendo le strade, le stradine, hai veramente la sensazione del sentire rinascimentale, del ritmo del Rinascimento, per cui conviene andare a spasso col naso per aria e goderselo in questo modo. Tra l'altro aggiungo solo, e non per, diciamo, riportare il discorso in un terreno più materiale, che a Pitigliano si può mangiare e bere benissimo. Lo si fa in tutta Italia, ma a Pitigliano in particolare c'è il rosso di Pitigliano ed è anche molto bello quando potremo tornare a farlo, magari sedersi nello spazio esterno di queste piccole cantine che ci sono nella piazza principale. Anche e assaporare così questa atmosfera di cui ci hai parlato, magari sorseggiando anche un buon bicchiere di vino. È un ottimo consiglio e anche quello gastronomico lo è altrettanto. Ci fermiamo solo per qualche istante, restate con noi. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR. Ad intrattenerti con i programmi in diretta e contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi, anche su Sky al canale 749 e su TV Sat. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939. Oppure visita il sito azienda.eolo.it. Globetrotter 24. Dalla Toscana al Piemonte, precisamente a Limone, borgo bandiera arancione del Touring Club italiano. All'indomani della chiusura, in tutta fretta degli impianti, l'amministrazione si è messa a lavorare sull'offerta estiva, osservando tutte le possibili misure di sicurezza. Rebecca Viale è la vice sindaco. Devo ammettere che come comune di Limone Piemonte siamo molto fortunati perché al momento non si sono ancora registrati casi. E quindi posso dire che viviamo in un'isola felice, anche perché siamo in montagna, in questi giorni la montagna ci sta regalando delle giornate bellissime, quindi per quanto non possiamo uscire, andare a passeggiare, almeno ci possiamo vedere il sole in terrazzo. Per voi quest'anno la stagione è finita di colpo? Sì, esatto, abbiamo dovuto chiudere, interrompere la stagione sciistica l'8 marzo di colpo, nessuno se lo aspettava, e diciamo che l'ultimo weekend è stato quello in cui siamo stati presi d'assalto, un po' come tutte le stazioni sciistiche, e quindi nessuno si rendeva conto verso cosa stavamo andando incontro. Sicuramente non è stato facile, perché questo è una chiusura totale, un lockdown così improvvisato, è stato un colpo per tutti i commercianti e per il settore. E adesso però stiamo pensando alla stagione estiva, come rialzarci. Cerchiamo di essere positivi e propositivi, visto che il limone Piemonte non è solo montagna, sci, neve, ma è anche Borgo Arancione, per cui voi giustamente vi proiettate verso l'estate. Ci racconti un po', anzi ci descriva un po' il suo borgo. Certo, Limone Piemonte è un borgo di montagna, il paese si trova a 1100 metri sul livello del mare e le nostre montagne arrivano a vette fino ai 2000 metri, quindi c'è moltissimo spazio, tanto spazio per le escursioni, per attività in moto, bici, quad, macchine. Inoltre noi vantiamo una strada panoramica che collega le montagne al mare, si chiama l'Alta Via del Sale, e che quest'anno comunque verrà aperta come sempre. Sicuramente non potremo contare sul turismo straniero, però conteremo sul turismo di prossimità. Limone è una località di seconde case, lo è sempre stata, e quindi ci auguriamo che le persone, se la mobilità verrà ripristinata, continueranno a venire in montagna, e proprio per questo motivo ci stiamo preparando per accogliere i turisti in maniera contingentata e in piena sicurezza, se qualora le disposizioni del governo di distanziamento sociale continueranno a essere confermate. Quindi stiamo valutando. Forse ha ragione il profeta Patrizio, che la vita non è poi questo grande supplizio, e non c'è solamente una via. Questo è molto interessante, perché potrebbe essere, diciamo, un consiglio, un indizio anche per gli altri comuni. In che modo state prevedendo arrivi appunto contingentati, quindi misure di sicurezza che potrebbero giustamente protrarsi anche nel corso dei prossimi mesi? Come assessore al turismo mi sto confrontando con le associazioni di categorie, con i commercianti pro loco, per cominciare a far capire a tutte le attività commerciali come si possono attrezzare per sviluppare un discorso di tipo di contingentamento, quindi con service delivery per quanto riguarda le attività di ristorazione, o sicuramente torneranno in auge i picnic. Lo spazio in montagna c'è e siamo fortunati da questo punto di vista. Poi per quanto riguarda gli eventi che venivano fatti, ecco, qui ci stiamo rimodulando, quindi anziché puntare molto su eventi serali come musica, serate di ballo e di canto o altre attività in genere di intrattenimento, stiamo puntando verso attività all'aperto, diurne, che coinvolgano famiglie e bambini. Diciamo che stiamo creando un tornare indietro per andare avanti, riscoprire innanzitutto i giochi che si facevano una volta, quindi caccia al tesoro, nascondino, palla prigioniera, e organizzarli all'aperto nei vari prati che la natura ci ha regalato. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Come saranno i nostri viaggi e come saremo noi come viaggiatori? Quali le nostre paure, quali le richieste? La Open Mind, che si occupa di comunicazione per regioni italiane, paesi stranieri e tour operator, si è messa a studiare, con l'aiuto di alcuni esperti, per delineare il viaggiatore post-Covid. L'amministratrice di Open Mind è Angela Marini. È nata da un'esigenza interna all'agenzia, noi occupandoci di marketing e comunicazione per tour operator delle destinazioni di corto raggio, di prossimità come Malta, come la Slovenia, di lungo raggio come il Giappone, le isole Cook, il Nepal, volevamo comprendere bene in che tono di voce tenere nella nostra comunicazione come ufficio stampa, quindi che cosa dire ai giornalisti, di conseguenza poi al cliente finale, e come aiutare le nostre destinazioni e gli operatori che si affidano a noi nella creazione del loro prodotto e della loro strategia di marketing, che è stata totalmente stravolta da febbraio in avanti per quanto riguarda il mercato italiano. Quindi, pur avendo studi, numeri, statistiche, comunque avendo accesso ad una marea di dati online, volevamo un punto di vista un pochettino diverso, no? Quello più di carattere psicologico, quello che avrebbe mosso il consumatore nel momento in cui, tornato fuori con la possibilità di viaggiare, che cosa l'avrebbe mosso su una meta rispetto ad un'altra, che cosa avrebbe avuto, di che cosa avrebbe avuto bisogno, quali sicurezze e quali dubbi stavano alla base poi di un'eventuale scelta. E da qui l'idea di interloquire con il dottor Fellettis, che è un neuropsichiatra di Torino, una persona estremamente ferrata, che in un confronto lungo di diverse ore ci ha dato degli spunti estremamente interessanti da un punto di vista diverso da quello più strettamente tecnico-turistico, ma quello forse un po' più umano, più intimo e più psicologico. E abbiamo chiesto a Felletti fondamentalmente come vedeva, sulla base dei suoi clienti e su quello che lui stava percependo nel suo lavoro quotidiano, quali erano i dubbi, le perplessità, le incertezze che muovevano le persone in questo momento e che stavano all'interno dell'inconscio delle persone. E lui ha spiegato che poi fondamentalmente confrontandosi con i suoi pazienti, ma anche avendo una visione molto generale rispetto a quello che stava succedendo, al netto di quello che praticamente potremmo o non potremmo fare, di conseguenza i voli, di conseguenza gli spostamenti oltre confine, l'uomo comunque è spinto a una spinta interna al movimento, soprattutto dopo un periodo di fermo, di reclusione forzata, tra virgolette reclusione, come quella che abbiamo dovuto accettare, non subire, ma accettare in questo periodo. Quindi l'uomo tornerà a muoversi, ma a muoversi spinto da dinamiche e da modalità molto molto diverse. La sicurezza sanitaria sarà inconsciamente la prima cosa che una persona cercherà, sia nell'andare anche soltanto a casa di qualcuno, no? Che ci sia una percezione di pulito, sia nell'andare in un paese, in un territorio diverso dal proprio. Quindi sicuramente i territori che sapranno comunicare nel modo migliore questa sicurezza, questa un'accoglienza quindi che sarà secondo norma, ma non soltanto norme tecniche di igienizzazione, ma comunque un ambiente sano, pulito, un ambiente che ha un input, un imprinting green, dove ci saranno degli spazi aperti dove poter fare comunque un genere di turismo più tranquillo, più slow, senza grandi affollamenti. Quelle saranno le mete, se vogliamo, più ricercate nel prossimo futuro. Così come i prodotti, no? Probabilmente ne risentiranno molto alcuni prodotti inizialmente per noi italiani molto amati, come potrebbero essere le crociere, come potrebbero essere i villaggi turistici. Probabilmente subiranno un primo rallentamento fin tanto che non ci sarà una svolta veramente definitiva rispetto al timore di contagio. Quindi in una fase intermedia, in una fase se vogliamo 4-5, no? Dopo questa prima fase di prova, nel momento in cui parliamo di luglio, agosto, andremo sicuramente alla ricerca di situazioni, se vogliamo, un po' più riservate, un po' più all'aria aperta, dove l'outdoor, lo slow travel avranno sicuramente una rinascita importante. I territori devono rassicurare le persone rispetto al fatto che se io vivo in questo ambiente, se io vivo in questo territorio, ti sto accogliendo, perché è come se ti accogliessi a casa mia. Se io sto bene, stai bene anche tu. In questo incontro con Felletti, ma in generale diciamo che anche in questo lungo periodo di lavoro decisamente diverso rispetto a quello che facevamo prima, è come se a un certo punto ci si ci si sia fermati a riflettere sull'importanza del territorio e dell'ambiente, del valore che questo ha, no? È come se questo virus abbia mandato un messaggio chiaro e tondo: tutti quanti fermati, vi rallentiamo e dobbiamo sanificare per riproporci in una maniera diversa. E io vedo che almeno gran parte del nostro settore si sta veramente adeguando a questa nostra tendenza, e a me ha colpito veramente tanto questo ripetersi di un ritorno alla bellezza e alla gioia di vivere, nel senso che dopo questo lungo periodo in cui abbiamo avuto fino a timore, in cui c'è stato questa morte che ha aleggiato, questo countdown rispetto all'arrivo alla fase 2, a questo appuntamento giornaliero con questi numeri che erano è diventato quasi angosciante, il bisogno di bellezza, di gioia di vivere, questo sarà il bisogno che muoverà le persone nel momento in cui potranno di nuovo tornare a uscire dai propri ambiti, dai propri territori per andare in altri luoghi. È ovvio che noi dovremmo fare i conti, Valeria, questo è basilare, sul fatto che in molti ci troveremo con una situazione economica molto diversa, dovremo fare i conti, e il settore dovrà fare i conti con persone che probabilmente avranno esaurito ferie, avranno esaurito permessi, quindi bisognerà fare i conti con molti fattori oggettivi che andranno a limitare, che andranno a influenzare le scelte, ma sicuramente quando verranno fatte queste scelte verranno fatte in una maniera estremamente diversa. Non sarà soltanto più la moda, la destinazione instagrammabile, il voyeurismo, no, mi vado lì perché così faccio vedere i miei amici dove sono andata. Tutto ciò probabilmente cambierà, probabilmente riusciremo di nuovo a riapprezzare, peraltro è una cosa molto importante, perché nel momento in cui determinate situazioni, ti faccio l'esempio, non lo so, dalla Toscana, di Uffizi, Firenze, quindi luoghi dove c'è la possibilità di un grande affollamento, si vanno a riscoprire e a rivelare altre situazioni di musei diffusi, di ambienti magari non tanto noti, i cammini, l'attività outdoor, quindi probabilmente questa sarà l'occasione anche di riscoprire territori e destinazioni da un punto di vista molto differente. Ci fermiamo qui, se volete scriverci globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.